Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Le crisi internazionali, a cominciare dalla Siria, fanno registrare un boom di richieste di asilo in Europa. Nel 2013 nei 28 paesi sono state 435.000, furono 100.000 in meno, 335.000 nel 2012. E il 70% delle richieste sono arrivate a Germania, Francia, Svezia, Regno Unito e quinto posto all'Italia con 28.000 richiedenti asilo. Ci torneremo nei prossimi giorni. Intanto oggi trasferta europea per il ministro della giustizia italiano Andrea Orlando, che presenta alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo il progetto sull'emergenza carceri. Nel gennaio 2013 infatti Strasburgo ha condannato l'Italia imponendole di pagare 100.000 euro ai detenuti e chiedendole di predisporre misure strutturali per risolvere la situazione del sovraffollamento. In gioco ci sono quindi risarcimenti per 3.000 cause che Strasburgo ha congelato fino alla scadenza del termine fissato per il 28 maggio. L'Italia insomma rischia di pagare un conto salato. Sconti di pena e risarcimenti ai detenuti sono ancora ipotesi allo studio, ci tiene a sottolinearlo il ministro della giustizia Andrea Orlando, ma le linee generali di questo piano sono state tracciate. Prevede un risarcimento dai 10 ai 20 mila euro ai detenuti che sono usciti dal carcere e uno sconto di pena per chi è ancora dietro le sbarre, esclusi i detenuti per reati gravi e quelli al 41 bis. Tutto per evitare le multe decise dalla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo nel gennaio 2013. L'Italia è stata condannata per il caso di 7 carcerati a Busto Arsizio e Piacenza che in cella avevano meno di 3 metri quadri a testa. Ma non è solo una questione economica. In ballo c'è anche l'immagine dell'Italia che sta per assumere la guida del semestre europeo e che solo 2 settimane fa ha ricevuto un ulteriore avvertimento dal Consiglio d'Europa. Orlando però non si presenterà a Strasburgo a mani vuote, potrà far valere una situazione in miglioramento. Nel gennaio 2013 i carcerati erano 65.700, oggi sono quasi 6.000 in meno, un effetto in parte del decreto svuota carceri varato dal precedente governo. Per maggio poi si dovrebbe scendere a 59.000, nel contempo salirà a 50.000 posti la capienza delle carceri grazie all'apertura di nuovi padiglioni e nuove strutture. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto l'avete sentito in GR24, il giorno del G7 all'Aia, a rappresentare l'Europa il presidente della Commissione, José Manuel Barroso. Bruxelles ha incassato l'appoggio degli Stati Uniti nella vicenda ucraina. Doveva occuparsi di sicurezza nucleare il vertice internazionale di 2 giorni che si apre oggi all'Aia. A prendere il sopravvento sarà invece la crisi ucraina. La presenza di truppe russe alla frontiera con il paese dell'Europa orientale fa temere una nuova escalation del conflitto e le mire di Mosca sull'Ucraina orientale abitata da molti russi. La comunità internazionale pena a reagire. Quest'oggi qui all'Aia il gruppo dei 7 terrà una riunione straordinaria per marcare l'isolamento internazionale della Russia. Arrivando in Olanda, il presidente americano Barack Obama ha spiegato che America ed Europa sono unite nell'affrontare il governo russo in questa vicenda. Nel frattempo, molti paesi dell'Est Europa sono preoccupati. La Romania, la Moldavia e i paesi baltici dicono di temere per la loro integrità territoriale. Il rischio in queste circostanze è di assistere a un'escalation militare molto pericolosa. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, L'Aia. E sul fronte economico, per la prima volta dopo la fine del salvataggio bancario, gli ispettori della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea sono tornati oggi a Madrid. La visita degli ispettori sarà centrata principalmente su questioni relative al settore finanziario, ma, avvertono da Bruxelles, saranno affrontate anche questioni più ampie relative all'evoluzione di bilancio ed economia della Spagna. Noi però per il momento ci fermiamo qui. Vi ricordo, l'Europa torna come sempre ad effetto notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.